1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Allora, cari ascoltatori, sono le 7:15 minuti. Incredibile, siamo già qui perché è festa, i giornali radio sono un po' più corti, ma noi ci siamo, è in diretta tutto quello che ascoltate. 7:15 minuti, la rassegna stampa c'è. C'eravamo al Parlamento. Alle 8:15 c'è Oscar Giannino con noi. Insomma, ci siamo, Ci siamo. Allora, di che parleremo oggi? Tra l'altro parleremo un pochino, dell'attualità sui giornali come sempre. Se volete potete anche chiamarci dalle 8, i centralini sono aperti, 800 24 00 24, se volete parlarci ancora del dibattito tra politica e magistratura. Se volete parlare, oggi c'è un'intervista di Matteo Renzi al quotidiano Repubblica che tra poco vedremo. Se volete parlarci di quello che volete, noi affronteremo anche la vicenda Breivik. Vi ricordate la vicenda Breivik? Breivik, colui che ha ucciso diverse persone in Norvegia e che è detenuto e che ha fatto causa allo Stato perché la sua detenzione in Norvegia, come dire, al caffè freddo, non ha la PlayStation ultimo modello. Potete sorridere di queste cose, ma in realtà vuol dire discutere di che tipo di detenzione vogliamo, che vuol dire mettere in carcere le persone secondo voi, se vuol dire punirle, se vuol dire anche rieducarle, che vuol dire se uno Stato si misura, insomma, dal grado di civiltà anche dalle sue carceri, come diceva qualcuno ben più importante. Parleremo di questo con voi. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Eccoci qui, allora, lunedì 25 aprile, i titoli. Il Sole 24 Ore apre su fisco, piano in tre mosse contro i capitali all'estero, le iniziative in Italia e nel mondo per contrastare i percorsi all'evasione internazionale. C'è anche Mauro Meazza e dopo sarà con noi per approfondire. Poi troverete molte aperture dedicate all'Austria, perché in Austria si è votato. E si è votato e ha vinto nettamente il partito anti-migranti alle presidenziali, ha dominato, è l'ultradestra di Hofer, il partito anti-migrati. Austria, avanza l'ultradestra, questo è il titolo del Corriere della Sera, per il Messaggero: Austria, trionfo anti-migranti. Questo è il titolo di prima pagina, anche la stampa: effetto migranti, trionfa la destra, dunque tutti concentrati sull'Austria. Renzi invece parla con Repubblica, non siamo più subalterni ai PM, ora norme per accelerare i processi, questo è il senso dell'intervista. Mentre il giornale apre con una lettera di Silvio Berlusconi che risponde a tutte le critiche di dove va Forza Italia, visto quello che sta succedendo a Roma, il disastro nella divisione, nella scelta del sindaco. Scrive Berlusconi: ecco dove va Forza Italia, titolo di prima pagina del giornale. Anche il Fatto Quotidiano rimane sulla questione politica magistratura, c'è un'intervista al procuratore antimafia Roberti che dà ragione a Davigo: i processi rapidi fanno paura, questo è il titolo di prima pagina. Mentre Libero: se ricarichi il telefono fai campagna per il PD. È una storia che magari vedremo tra poco, che riguarda una persona che ha ricevuto un messaggio un po' strano su un telefonino. Prima voglio partire da Genova, dove fortunatamente pare che sia rientrato l'allarme per il greggio che si è sversato nel torrente Polcevera, almeno per quel che riguarda il mare. Il mare è salvo, diciamo. Rientrato l'allarme in Liguria, la stagione è salva. La conferma anche dall'aereo: in mare non c'è traccia di petrolio. È anche vero che, scrive la stampa, i turisti per ora sono prudenti, nessuno fa il bagno. Però, se vogliamo non essere allarmistici, quando c'era l'allarme è stato detto attenzione, adesso diciamo, perché così dicono le autorità, che invece l'allarme è rientrato, non si capisce perché bisogna sempre credere da un lato e non credere quando si dice invece che l'allarme è rientrato. Comunque, pulita Pulita, pulita, risponde il pilota del gommone della guardia costiera guardando il mare intorno. La foce del Polcevera, il torrente avvelenato. Fino a ieri qui c'erano ancora macchie e iridescenze. Ora finalmente non c'è più nulla. Inizia così l'articolo di Marco Menduni che trovate sulla Stampa, pagina 17. Dalle 8 del mattino il pilota ha percorso il tratto di mare del capoluogo di Savona, dal capoluogo a Savona, dicendo neanche una macchia, non si è visto nemmeno un pesce morto. Insomma, Daniele Intelisano, capo reparto operativo, vive in simbiosi col cellulare da giorni fino a mettere alla prova la resistenza della batteria. Ma ora gli si dipinge un sorriso sul volto. È una buona notizia, esclama. La buona notizia è che alle 3:30 del pomeriggio l'aereo della Capitaneria ha volato fino al confine con la Francia e ritorno e il mare è pulito, non c'è più nulla. Solo qualche piccolo residuo, testimonianza di una catastrofe solo temuta, ma non, per fortuna, avverata. Dunque, questa è la notizia positiva. Nessuna macchia nera sulla sabbia, dicono anche dalle spiagge, nemmeno nuvole e vento hanno impedito dunque agli stabilimenti di riempirsi, i primi stabilimenti aperti, la stagione sembra salva. Anche sul Messaggero, Genova, le chiazze oleose si dissolvono e Repubblica, rientra l'allarme anche se in mare parte la caccia alle ultime chiazze di greggio. Insomma, voglio pensare, sperare che possiamo stare davvero tranquilli per questa situazione. Invece voglio raccontare, visto che si parla molto di questo rapporto politica-magistratura, la vicenda che è finita su tutti i giornali della PM, che, alla quale è stata rimossa l'inchiesta perché ha fatto degli apprezzamenti su Garco. Avete presente Garco? Apprezzamenti fatti su Facebook. C'è uno sviluppo. Andrea Pasqualetto racconta tutto a pagina 18 del Corriere della Sera. La PM punita per gli elogi a Garco. Erano frasi private. Sono stata tradita. È stata relatrice a convegni sullo stalking, sul diritto di famiglia, sull'omicidio stradale. Da pubblico ministero ha seguito inchieste delicate come quella dei furti al casinò a Sanremo, dei depuratori della Riviera. Insomma, un impegno ai più sconosciuto. Poi arriva Gabriel Garco in pigiama, ancora impolverato, barcollante. Le dice due cose sull'esplosione di Sanremo dove morì la proprietaria della villetta che lo ospitava. E per il PM d'Imperia Barbara Bresci cambia tutto. Ora l'Italia la conosce, è quella di Garco, la magistrata stregata dall'attore, colei che in una chat privata, peraltro, di Facebook, a un'amica che chiedeva «Ma è davvero così bello?» Lei risponde «Sì». «Ti sei rifatta gli occhi?» «Sì, è tanta roba, anche se acciaccato in pigiama». Parole leggere, eppure esplosive per lei. Il CSM interviene, il procuratore capo rimuove lei dal fascicolo, le toglie il fascicolo, insomma, rimuove lei dall'inchiesta in cui c'è Garco, che peraltro non è indagato, è persona offesa. E peraltro fanno notare i commenti, vedete, ti sei rifatta gli occhi? Sì, ma è davvero così bello? Sì, cioè i commenti gli erano stati sollecitati da altri, non riguardavano i fatti oggetto dell'indagine. Insomma, adesso c'è la protesta di lei che rimane silenziosa, ma racconta il Corriere della Sera attraverso gli amici, fa sapere qualcuno mi ha tradita. Quella bacheca non la vedevano tutti, qualcuno che aveva interesse a incastrarmi ha fatto la spia. Questa sarebbe la versione. Insomma, la PM punita per gli elogi a Garco ora dice sono frasi private, sono stata tradita. Ale, dai, non è il rapporto politica magistratura che tra poco vedremo con Renzi, ma è un modo per alleggerire un po' la questione. Intanto, a proposito di alleggerimento, voglio andare a saltare sulla prima di Libero, perché questa frase di titolo di prima pagina, se ricarichi il telefono fai campagna per il Partito Democratico, sinceramente mi ha abbastanza incuriosito. E allora la storia è questa: Franco Bechis racconta la storia di uno stimato professionista di Benevento, A.V. Non viene definito con nome e cognome, ma con le iniziali, evidentemente non vuole essere identificato. Lui ha aperto un conto alla Monte Paschi Siena a Benevento, anche online, anche dando la possibilità di ricevere sms ogni tanto dalla banca, sulle ricariche telefoniche, gli arriva un contratto, una proposta di un contratto a Fastweb, ma a un certo punto gli arriva un SMS e questo lo incuriosisce molto. E l'SMS viene riprodotto su Libero, la schermata, no? Sabato 30 aprile, ore 11, Teatro Massimo di Benevento, manifestazione elettorale con il ministro Maria Elena Boschi a sostegno del candidato sindaco. Non mancare. Ecco, da qui effettivamente la vicenda si fa un pochino più contorta. Nella vita aveva visto di tutto, sulla sua banca di fiducia aveva sentito talvolta battute. C'era chi chiamava la banca rossa. Non è un mistero che fosse nata e dominata da territori in cui il PC, poi PDS, poi DS, infine PD l'aveva sempre fatta da padrone. Un po' era leggenda, un po' verità. Ma quando per la prima volta arriva questo messaggio, ecco che tutto cambia. SMS dalla banca rossa, c'è la Boschi, non mancare. Un correntista di Montepaschi fa una ricarica telefonica e così la notifica dell'istituto di credito riceve l'invito a un comizio di Maria Elena. Va bene, si potrebbe dire, sono cose che capitano. Ma io qui, cari ascoltatori, devo dire, pur rabbrividendo, ho letto quest'articolo che è un'inchiesta che Gabriele Martini mette in prima pagina della Stampa, che vince nettamente, a mani basse, il premio Mani sul Volante. Se siete alla guida, magari state andando a fare la gita fuori porta del 25 aprile. È una, come dire, è un articolo che per leggerlo bisogna anche un po' mettersi, dico io, nell'atteggiamento giusto, perché parla di pedofilia e non è facile leggere le cose che vengono scritte dalla Stampa. E però è una storia di un buono, se volete, cioè del poliziotto che stana gli orchi sul web. Così salviamo i bambini dagli abusi. Forse nasce questa inchiesta della Stampa da quando, proprio 3 giorni fa, Davigo ha detto che bisognerebbe fare come si fa nel contrasto alla pedopornografia, e cioè infiltrare i poliziotti che si fingono dei pedofili di fatto, e così beccano i pedofili veri. Davigo dice che bisognerebbe farlo anche per la corruzione, cioè infiltrare poliziotti, dare delle finte bustarelle e chi le accetta viene arrestato. Allora, al di là della polemica, quella lì c'è sulla corruzione, qui invece la questione è tutta vera. Gabriele Martini racconta la storia del poliziotto che stana i pedofili su internet. Cosa c'è in quei video, in quelle foto, esordisce lui, scene orribili, anzi definirle orribili non basta a rendere l'idea, laggiù c'è l'inimmaginabile. E laggiù è internet, un angolo buio del web dove imperversano le più ignobili e sudice fantasie sessuali, quelle sui bambini. E chi vive nel mondo reale non può percepire cos'è la pedopornografia, ed è meglio così, dice questo poliziotto, accento romano, sorriso bonario, ciuffo di capelli neri ben curato, passa ore e ore davanti allo schermo, fingendosi appunto un pedofilo, contattando altri pedofili e poi facendoli arrestare. E dice di loro somigliano ai tossicodipendenti, la loro droga è la pedopornografia, non possono farne a meno, ogni giorno alla sua dose. Quasi sempre sono maschi, spesso diplomati e laureati, non di rado sono giovani, come lo studente universitario genovese di 21 anni arrestato 2 settimane fa. Il poliziotto cacciatore trascorre le giornate davanti a 4 monitor seduto alla scrivania di un ufficio al 3° piano del quartier generale della polizia postale. Ma quando poi ci sono gli arresti, spesso, dice, vado e assisto e partecipo ai blitz, perché magari ho parlato con queste persone in rete, quindi online, per mesi, e quando lo vedo in faccia non provo rabbia, vorrei dirgli io so chi sei, conosco tutti i tuoi fantasmi, quindi per te è finita e stavolta abbiamo vinto noi. E alla domanda chi siamo noi è ovvio, noi siamo i buoni. È una storia, un reportage che trovate a pagina 12, è nettamente il premio Mani sul Volante di oggi, il poliziotto che stana gli orchi sul web, così dice, salviamo i bambini dagli abusi. ora Milan si legge i giornali. Alino, Alino! Ma che è? Va bene, allora, ci ascoltano anche da Cipro. Prima ho salutato davvero tutti, da Hong Kong, dallo Zambia. Oggi ci stanno ascoltando dallo Zambia, Lusaka. Ci ascolta anche Attilio da Cipro che chiede il numero WhatsApp. Dai, dovreste saperlo ormai. 349-238-6666 è il numero WhatsApp. È il numero anche per i vostri messaggi. È il numero di Radio 24. Allora, siamo in diretta, ricordiamolo, 7:34 minuti. Allora, leggiamo quello che c'è sui giornali, a cominciare dall'intervista che Matteo Renzi, presidente del Consiglio, rilascia a Repubblica. Il tema principale che dà il titolo di prima pagina è quello dello scontro, anzi, per carità, scontro che non c'è, non si dica mai scontro, tra politica e magistratura. Non siamo subalterni ai PM, ora norme per accelerare i processi. Questo è il titolo dell'intervista di Claudio Tito al Presidente del Consiglio. Esordisce così Renzi: Davigo faccia nomi e cognomi. Dire che sono tutti colpevoli significa dire che nessuno è colpevole. Matteo Renzi, insomma, non accetta l'equazione del neopresidente dell'ANM. Difende la politica e anzi avverte che ormai è finito il tempo della subalternità. E poi continua l'intervista, pagina 2 di Repubblica. Eccolo qua. I politici che rubano fanno schifo, dice Renzi, e vanno trovati, giudicati e condannati. Questo è il compito dei magistrati, cui auguriamo rispettosamente di cuore buon lavoro. Dire che tutti sono colpevoli significa dire che nessuno è colpevole, esattamente l'opposto di ciò che serve all'Italia. Voglio nomi e cognomi dei colpevoli e voglio vedere le sentenze. Una politica forte non ha paura di una magistratura forte. È finito il tempo della subalternità. Il politico onesto rispetta il magistrato e aspetta la sentenza. Tutto il resto è noia, avrebbe detto Califano. E ancora al PM Di Matteo, che ieri su Repubblica accusa la classe politica addirittura di andare a braccetto con la mafia. Vale lo stesso principio, dice Renzi. Nomi e cognomi, per favore, e sentenze. Poi dice, ora la priorità è che si velocizzino i tempi della giustizia. Va bene allargare la prescrizione, ma dando tempi certi tra una fase processuale e l'altra. Non è umanamente giusto che si debbano attendere anni, talvolta decenni, per finire un processo. Poi Renzi parla anche di altre cose, come le tasse. Questo è il governo che ha ridotto più tasse della storia repubblicana, dice il Presidente del Consiglio. Sfido chiunque a dire il contrario. La prossima riduzione fiscale sarà con la stabilità 2017. In quell'occasione si possono abbassare le aliquote IRPEF, vedremo instabilità, calma e gesso. L'unica cosa a cui i cittadini possono stare tranquilli è che le tasse continueranno a scendere. E poi dice Draghi ha fatto bene a rispondere alle pressioni tedesche sui tassi. Assolutamente sì, la maggioranza dei paesi lo sostiene con vigore e non solo noi. Parla anche degli immigrati, insomma un Renzi a tutto campo, ma soprattutto il rapporto con i magistrati. E oggi sul Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che qualche giorno fa ha intervistato Davigo, anche se il vero botto Davigo lo ha fatto con l'intervista a Aldo Cazzullo sul Corriere, che ha scatenato poi tutto il putiferio. Oggi Marco Travaglio intervista Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, che dice io sto con Davigo. Sapete che in Italia bisogna tifare, no? Siamo il paese del calcio, quindi adesso bisogna tutti stare da una parte, o con Davigo o con Cantone, o con Davigo o con Renzi. Non sono ammesse mezze misure, siamo un popolo così bambino, un po' puerile. E allora Franco Roberti, io sto con Davigo. Si può discutere sul suo gusto per la battuta, ma sulla sostanza delle cose i magistrati sono quasi tutti d'accordo. Prima assurdità, la prescrizione inizia a decorrere non quando il reato e il possibile autore vengono scoperti, ma quando il fatto viene commesso, cioè molto prima che il PM lo venga a sapere. Quindi Roberti dice basterebbe far decorrere la prescrizione dalla scoperta del reato. E poi si blocca la richiesta di rinvio a giudizio o al massimo alla prima sentenza. Poi, seconda proposta di Roberti, una delle prime cause di prescrizione è la legge che di fatto annulla tutti gli atti dei processi, dove cambia un giudice del collegio, un codicillo che salvi gli atti quando cambia il collegio, eviterebbe di ripartire da capo. E tre, nel processo accusatorio, col dibattimento nel contraddittorio delle parti, l'appello fotocopia del primo grado è un assurdo doppione. Niente più appello, salvo per il rito abbreviato. Ecco, su questi tre punti ci potrebbe essere un accordo. Ma, dice Roberti, purtroppo dentro e fuori al Parlamento e alle amministrazioni c'è troppa gente che non ha alcun interesse a una giustizia che funzioni o che ha il preciso interesse a una giustizia che non funzioni. Così Franco Roberti. Vabbè, il dibattito c'è, per carità non chiamatelo scontro, ma dibattito sì. Oh, si può almeno chiamare scontro quello che succede invece nel centrodestra a Roma, puntata numero 2944 del ritiro di Bertolaso che non c'è più? Sta di fatto che il centrodestra nel caos per il caso Roma è un qualcosa, un titolo che oggi ripropone il Corriere della Sera, anche questo è il 40° titolo degli ultimi giorni. Beh, Matteo Salvini, quando ha saputo che Berlusconi va avanti con Bertolaso, ha deciso evidentemente di alzare un po' i toni. Voi dite, ma già li usa molto alti. Beh, sentite l'intervista che ha fatto oggi al Corriere della Sera Matteo Salvini, il leader della Lega. Intervistato da Marco Cremonesi a pagina 9, Forza Italia senza futuro se fa decidere chi non rappresenta nessuno. Eccolo qua Salvini, in Forza Italia c'è gente che non vuole ragionare con la Lega ma trova normale dare alla Turchia 6 miliardi. Parla di Antonio Tajani. Certo, ecco, io non sarò mai alleato coi servi della Merkel, definisce così Tajani. Quando saremo al governo non ci sarà il minimo spazio per le politiche che sono la morte dell'Italia. E allora sentite Salvini, meglio far chiarezza subito. Si tengano Bertolaso, i suoi rom e i suoi topi. Ormai fa il paio con Razzi e i suoi gatti, ma non è politica, è crozza nel paese delle meraviglie. E Marchini? Ma per piacere. Prendo atto che esiste un centrodestra nostalgico dell'inciuccio con Renzi, che invece è perfino peggio di Monti. No, nessuna nostalgia da parte nostra. E ancora, la vicenda di Francesca Pascale, che detto per inciso ha definito troglodita Salvini. Non commento, risponde Salvini, stendo un velo di tenerezza e umana comprensione. Io in Lega li ho vissuti i periodi in cui a decidere era qualcuno che non rappresentava nessuno. Mogli, figli. La Pascale credo sia lontana dalla realtà. Il male dei giovani meridionali che scappano all'estero per lavorare non può essere Salvini. Prendermi del troglodita da una che non conosce i problemi dei ragazzi mi lascia indifferente. Questo Salvini, così anche la Meloni, un po' più sfumata, ma intervistata sempre dal Corriere, dice così Berlusconi aiuta il Premier. E Berlusconi che fa? Berlusconi prende carta e penna e scrive al giornale. Scrive al giornale una lunga lettera pubblicata in prima pagina. Ecco dove va Forza Italia. L'incipit è: mi ero imposto di non replicare alle rappresentazioni caricaturali della condizione di Forza Italia, visto che sono discussioni che appartengono al teatrino della politica che io non ho mai amato e dal quale gli italiani dimostrano ogni giorno di essere nauseati. Ma, insomma, Berlusconi, visto che viene tirato in ballo, replica. Ed ecco dove andiamo. Intanto, dice Berlusconi in questa lunga lettera, un'intera pagina, pagina 3, noi non siamo la destra. Per quel che valgono queste categorie, Forza Italia è un partito moderato. Con la destra siamo alleati da 20 anni, abbiamo governato insieme, sono certo che governeremo ancora in futuro. Ma se oggi il centrodestra non è forte come il passato, è perché una parte di questi italiani si sono ritirati nell'astensionismo. E poi dice perché mi hanno negato l'agibilità. Insomma, una lunga analisi di dove va Forza Italia la trovate sul giornale. Mentre c'è anche Giuliano Ferrara che si butta nel mucchione dei dibattiti su cosa succede alla destra a Roma. Eccolo qui il dramma spettacolare del Cavaliere e i suoi interlocutori visto da un intruso affezionato, così si definisce Ferrara, la prima del foglio, so tutto di Berlusconi, e dice So che nell'affare romana in cui è impegolato lui è un supereroe matto e disperatissimo. I suoi interlocutori sono dei mediocri quando non dei minchioni. Salvini lo insulta e lo snobba, sogna un futuro addirittura da leader, ridicolo e pretenzioso. La Meloni, questa vanitosa dea dei tassinari più rozzi, gli tira la giacca per fare un giro di giostra al Campidoglio, dove le oche ancora starnazzano per il sacco di intelligenza provocato dal suo mondo e dalla sua congrega negli anni di Alemanno. Il subgovernatore Toti, cui non manca solo una T, fa lo stratego, il generale vittorioso a Varazze, che marcia su Arcore in compagnia di un esercito di impiegati impaziente di liberarsi del boss. Deputati, senatori e notabili vari sono in corsa nella solita gara di slealtà. Il buon Gasparri non capisce come non si voglia riunificare il centrodestra, ma il fatto che Gasparri non capisca spesso si capisce. E insomma, così li sistema un po' tutti. Giuliano Ferrara che conclude dicendo: provano il vecchio giochetto della circonvenzione di incapace e nel mio piccolo spero ardentemente che falliscano. Insomma, tutti contro Berlusconi e Giuliano Ferrara, li sistema uno a uno sul foglio. Ma è il momento del nostro? È il momento di Mauro Meazza, signori, 25 aprile, la liberazione di Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno. Essendo lunedì, anche sì, se un lunedì di festa, sì, tu lavori. Come? Io lavoro, anche tu però, esatto, peraltro, e quindi volevo dare lettura degli abituali endecasillabi del lunedì, giusto, anche in questo giorno di festa, se ne ho facoltà. Certo, prego, prego. Per acque più lontane alzano le vele i conti degli evasori impenitenti, che là dove correa zucchero e miele arrivan tasse e stridor di denti. Voluntari o noluntari si stringe la mappa degli antichi paradisi, oggi sul sole bene si dipinge com'è cambiata ai tempi della crisi. Di giovani poi parliamo e non si ciarla, lo scoprirà anche Peter Bescapè, che il canuto nocchier che ora ti parla, a nascer prima ha avuto il suo perché. Ma sai che in radio non importa il look, ma quel che con la voce hai raccontato, e allora non scordarti dell'ebook sul 7.30 ben precompilato. Lo troverai sul sito dell'esperto e se averlo vorrai gratuitamente, digita il codice che sta nell'inserto e leggi tutto religiosamente. Eupalla sentenziò: i campion futuri verranno da Pechino e non dal Baltico. Io non saprei, ma ti fo tanti auguri per oggi stesso ed ora spazio al traffico! Alessandro Milan, come la lesci e la rassegna stampa, non la lesci nessuno. E mo non si facciano wap, Alessandro. Vabbè. Starò a court. E allora, cari ascoltatori, eccoci qui. Beh, devo segnalare anche l'intervista che Luca Telese fa a Fausto Bertinotti. Fausto Bertinotti, lo sapete, la scorsa settimana è stato bersagliato perché ha detto la sinistra è morta e si è avvicinato a CL. Evidentemente una cosa che buttata lì ha creato un po' di subbuglio a tutti, in tutti coloro che hanno seguito la parabola politica di Bertinotti in tutti questi anni. E comunque Luca Telese va a chiedere conto a Fausto Bertinotti, ex presidente anche della Camera, proprio di questa, come dire, metamorfosi. In realtà l'esordio è un pochino duro, dallo stesso Bertinotti, che dice: alla domanda le ha stupito tutti quando il Corriere ha detto e ha rivelato la sua apertura verso Comunione e Liberazione. Su questo punto non ho nulla da aggiungere. Ho raccontato di aver trovato in CL molto di più e di diverso di quel che mi aspettavo. In primo luogo il suo popolo. Guardi, non aggiungo altro. Ho subito un'offensiva mediatica e una campagna di strumentalizzazione. Sono abituato. Ho ricordato che per Gramsci l'intellettuale può rappresentare il popolo solo se ha con lui una connessione sentimentale, e questo sentimento tra loro l'ho trovato. Però la sento arrabbiata. Un Fausto Bertinotti sempre arrabbiato. Anche lo scontro politico più duro dovrebbe partire dai fatti e non dalle invettive. Ma lasciamo perdere. Io dico cose sgradevoli per la destra e per la sinistra, ne sono consapevole. Vabbè, titolo dell'intervista comunque: la sinistra è morta. L'ex presidente della Camera ha trovato una connessione sentimentale in CL, evidentemente ne invidia il popolo, che non ha molto seguito invece Fausto Bertinotti, evidentemente, in tutti questi anni. Dico che a sinistra le piste sono esaurite, dice Bertinotti. Le due anime che conosciamo non hanno più nulla da dire. E quali piste? La pista, sia l'anima nuovista che quella che si rifugia nella tutela identitaria come se nulla fosse accaduto. I nuovisti sono quelli che io considero letteralmente trascinati, nel mio linguaggio, dal nuovo capitalismo. Cioè, voi capite poi la piega che prende l'intervista a Fausto Bertinotti. Interessante, ma a quest'ora magari digeribile come lo zampone le cotiche. Vabbè, comunque, questo è l'intervista di Fausto Bertinotti su Libero. La trovate, intervistato da Luca Telese, a pagina 5. C'è da dire che invece, per guardare all'estero, molti giornali aprono sull'Austria. Cosa è successo in Austria? In Austria ci sono state le elezioni. Per esempio, eccolo qua, il Corriere della Sera apre su questo, anche il Messaggero, anche la Stampa. E si nota l'avanzata dell'ultradestra. Ovviamente pare che la vicenda migranti abbia giocato un ruolo. Comunque, Norbert Hofer del Partito della Libertà supera il 36% dei voti e conquista il ballottaggio alle presidenziali ed è destinato a cambiare gli equilibri politici del paese il primo turno delle presidenziali in Austria. Norbert Hofer, appunto dell'FPÖ, partito giudicato dal Corriere della Sera di estrema destra, nelle proiezioni supera il 36% e va al ballottaggio con l'ex leader dei Verdi, Alexander Van der Bellen, 72 anni, che si ferma al 21%. Per la prima volta dal dopoguerra spariscono dal secondo turno i due candidati delle formazioni di governo, il cristiano democratico dell'ÖVP e il socialdemocratico dell'SPÖ. Quindi una grande sorpresa per due candidati che vanno al ballottaggio non dei partiti tradizionali e soprattutto al primo posto l'estrema destra definita dal Corriere della Sera, mentre in Turchia c'è da registrare la nuova offensiva di Erdogan verso i giornalisti. Questa volta è stata una reporter olandese sorvegliata dalla polizia turca e obbligata a rimanere in Turchia, portata anche in questura, accusata di avere insultato Erdogan su Twitter. E d'altronde Erdogan, pensa, dice il Corriere della Sera, ha fatto causa a 1845 persone in Turchia dall'agosto del 2014 per insulti, diciamo. E l'ultima è stata appunto questa giornalista olandese che è stata rilasciata, ma ha l'obbligo di rimanere in Turchia, è stata comunque svegliata dalla polizia e portata per accertamenti. Turchia, reporter olandese fermata per un tweet anche su Repubblica, questo è il titolo. Vabbè, ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua, è un'intera pagina del giorno. Ah... sulla candidata regina di cuori, sul fatto che Giorgia Meloni, per esempio, e Lucia Borgonzoni, che è la candidata della Lega a Bologna, sono riprese in foto durante la campagna elettorale, non so, un po' combattive, un po' spettinate, un po' con il look, non dico trasandato, ma insomma non estremamente curato. E invece quando fanno le foto nei manifesti elettorali sono tutte così glamour. E il giorno dedica una pagina a questo, la verace Meloni e la dura Borgonzoni, quando poi fanno i poster diventano glamour, glamour, glamour. Ma chi se ne frega!